Che cosa promette il pedagogo? Il triplice logos e il ruolo del pedagogo. Abbiamo innalzato per voi, o figli, un piedistallo di verità, fondamento indistruttibile di conoscenza nel sacro tempio del grande Dio, un dolce invito, un anelito alla vita eterna per mezzo di un'obbedienza conforme al logos, anelito che è stato seminato nel terreno dell'intelletto. Nell'uomo vi sono queste tre cose: le attitudini, le azioni, le passioni. Ora, al logos esortante spetta occuparsi delle attitudini dell'uomo, essendo egli la guida della religione, il logos soggiacente come una chiglia all'edificio della fede. In lui ci rallegriamo sommamente e, abbiurando le antiche credenze, ringiovaniamo in vista della salvezza e uniamo il nostro canto alla melodia dei profeti. Quanto è buono Dio verso Israele, verso i retti di cuore. Quanto alle azioni, è il logos consigliere che le governa tutte. E infine è il logos consolatore che guarisce le passioni. Ma ciascuno dei tre è sempre questo unico medesimo logos, che strappa l'uomo alle sue abitudini, cresciute con lui e legate al mondo, e quindi lo conduce per mano come un pedagogo all'unica e unitaria salvezza della fede in Dio. Questo celeste reggitore, ossia il logos, allorché ci invitava alla salvezza, riceveva il nome di esortante, protreptikos. Così è denominato specificamente, designando il tutto con la parte, questo logos che ha la funzione di stimolarci. Del resto è tutta la religione che ha carattere esortativo, dal momento che ingenera il desiderio della vita presente e futura nella mente, che a ciò è già per natura incline. Adesso però il logos, contemporaneamente in qualità di guaritore e di consigliere, succedendo così a se stesso, incoraggia colui che già prima aveva esortato e principalmente ci promette la guarigione dalle passioni. Chiamiamo questo con un unico nome a lui congeniale, pedagogo. Il pedagogo, infatti, ha a che fare con la guida pratica, non con l'indagine teorica, come pure il suo scopo è di rendere l'anima migliore e non di istruirla. Egli guida ad una vita di virtù e saggezza, non di conoscenza. Certamente, questo stesso logos è anche colui che istruisce, ma non ora. Quello che espone e manifesta le questioni dottrinali è il logos istruttore. Il pedagogo, invece, avendo finalità pratiche, ci ha dapprima esortati a disporre il nostro animo alla vita morale e adesso ci invita a mettere in atto i nostri doveri, dandoci direttive ineccepibili e mostrandoci gli esempi dei nostri predecessori che hanno fuorviato. E invero entrambi i metodi sono utilissimi. Il metodo dell'incoraggiamento ci conduce all'obbedienza, mentre il secondo, che opera per mezzo di esempi, è anch'esso duplice a somiglianza della duplicità testé menzionata. Da una parte ci spinge a imitare e a scegliere il bene che l'esempio ci presenta, dall'altra a respingere e detestare il male che in esso figura. La guarigione dalle passioni ne consegue. Il pedagogo, infatti, servendosi degli esempi incoraggianti, fortifica gli animi e con i suoi benevoli precetti, quali fossero dolci farmaci, conduce verso la piena conoscenza della verità quelli che erano stanchi e abbattuti. Salute e conoscenza, invero, non sono la stessa cosa. Questa si acquista con l'apprendimento, l'altra con la cura guaritiva. E chi fosse ancora malato non potrebbe apprendere qualcosa di ciò che si insegna prima di aver riottenuto la completa salute. Né ciascuna delle direttive viene sempre data in maniera uguale a chi sta imparando e a chi è infermo, bensì all'uno viene data per acquisire la conoscenza, all'altro per la guarigione. Ebbene, come coloro che sono malati nel corpo hanno bisogno di un medico, così gli infermi nell'anima necessitano di un pedagogo, il quale guarisca le nostre passioni e poi ci guidi verso il Maestro, predisponendo la nostra anima ad essere pura e quindi capace di conoscenza e ad essere in grado di accogliere in sé la rivelazione del Logos. Egli, il Logos amante degli uomini sotto ogni aspetto, è sollecito nel condurci alla perfezione tramite il cammino salvifico e perciò adotta una tattica o oikonomia bella e appropriata per un'efficace educazione, invitandoci dapprima, poi guidandoci per mano, infine istruendoci. È a causa dei nostri peccati che il pedagogo ci dirige. I peccati sono contrari al Logos. Il nostro pedagogo, o figli, assomiglia a Dio, suo padre, del quale è figlio, senza peccato, irreprensibile e non toccato dalle passioni dell'anima. È Dio immacolato sotto forma di uomo, servitore della volontà paterna, Logos Dio, che è nel padre ed è alla destra del padre, Dio anche nella forma. Egli è per noi l'icona senza macchia, a lui dobbiamo cercare con tutte le forze per rendere simile la nostra anima. Tuttavia, mentre egli è completamente libero dalle passioni umane e per questo è anche l'unico giudice, essendo l'unico senza peccato, noi dobbiamo invece sforzarci semplicemente di peccare il meno possibile, nella misura in cui vi riusciamo. Nulla, infatti, è più urgente che l'allontanare dapprima le passioni e le infermità, di poi impedire una facile ricaduta nella consuetudine al peccato. Ora, la cosa migliore è non peccare affatto, in nessun modo. Questo, diciamo, che è prerogativa di Dio. Al secondo posto vi è il non commettere nessuna iniquità di cui si abbia consapevolezza. Ciò è proprio dell'uomo saggio. Al terzo posto vi è poi il non cadere mai nei molti peccati involontari. Ciò è caratteristico delle persone di nobile educazione. Infine, diciamo che vi è il non indulgere troppo a lungo nelle colpe. Per coloro che sono chiamati alla conversione, infatti, anche lo stesso ricominciare a combattere è una via per la salvezza. Mi pare che assai bene dica il pedagogo per bocca di Mosè. Se qualcuno muore accanto a lui all'improvviso, il suo capo consacrato sarà immediatamente contaminato e verrà rasato. Chiama morte improvvisa il peccato involontario e dice che contamina, intendendo dire che macchia l'anima. Perciò raccomanda di ricorrere immediatamente alla terapia, consistente nel rasarsi subito il capo. Esorta cioè ad eliminare i capelli dell'ignoranza che fanno ombra al Logos, in modo tale che quest'ultimo, che ha sede nel cervello, denudato della materia densa, cioè del male, possa tornare speditamente al ravvedimento. Poi, dopo poche parole, aggiunge: «I giorni precedenti sono senza Logos». Con ciò è chiaro che si riferisce ai peccati, i quali avvengono non secondo il Logos. Aveva chiamato morte improvvisa la colpa involontaria, ora chiama senza ragione il peccato. A motivo di ciò il Logos, ossia il pedagogo, ha assunto la funzione di guida per impedire il corso del peccato, che è contro il Logos. Si noti ora quel che dice la Scrittura. Per questo il Signore parla così. Attraverso la frase che segue a questa espressione, la colpa che è stata commessa viene indicata in modo perentorio, in quanto subito è dettata la giusta condanna. E ciò è chiaramente manifestato per bocca dei profeti, che dicono: «Se tu non avessi peccato, egli non ti avrebbe minacciato queste cose». E per questo così parla il Signore, ovvero: «Poiché non avete dato ascolto a tali parole, per questo così dice il Signore». E «per questo, ecco, dice il Signore». La profezia, infatti, esiste per questo, per l'obbedienza e per la disobbedienza, per la prima al fine di salvarci, per la seconda al fine di educarci. La guarigione operata dal pedagogo. Il nostro pedagogo è Logos, e dunque, attraverso i suoi ammonimenti, il terapeuta delle passioni dell'anima che sono contro natura. In senso proprio, la cura delle malattie del corpo è detta medicina, un'arte insegnata dalla sapienza umana. Ma l'unico medico delle infermità umane è il Logos del Padre, santo guaritore e mago dell'anima malata. «Salva, o mio Dio», dice, «il tuo servo che spera in te. Abbi pietà di me, Signore, poiché a te grido tutto il giorno». L'arte medica, infatti, secondo Democrito, cura le malattie del corpo. La sapienza, invece, libera l'anima dalle passioni. Ora, il buon pedagogo, la sapienza, il logos del padre, il creatore dell'uomo, si prende cura di tutta l'opera delle sue mani. Ne sana sia il corpo che l'anima, lui che è medico e panacea dell'umanità. «Alzati», dice il Signore al paralitico, «prendi il lettino su cui giaci e torna a casa». Subito, colui che era privo di forze riacquistò vigore. E al morto disse, «Esci, Lazzaro!» E il morto uscì dalla tomba così come era prima di morire, e questo fu per lui un assaggio della resurrezione. Certamente, egli guarisce l'anima anche in se stessa, con i suoi comandi e con le sue grazie, ma la guarigione per mezzo dei precetti richiede forse più tempo. Quanto alle grazie, invece, egli ne è ricco e dice semplicemente a noi peccatori «Ti sono rimessi i tuoi peccati». E noi, al solo suo pensarlo, eccoci divenuti bambini, ricevendo così il posto più nobile e più sicuro da parte della sua sapienza ordinatrice. Questa sapienza dapprima si occupò dell'universo e del cielo, delle rotazioni del sole e delle orbite e dei corsi degli altri astri, in funzione dell'uomo. Poi si occupò dell'uomo stesso, per il quale tutta questa sollecitudine veniva profusa. Essa poi, vedendo nell'uomo la sua opera più grande, ne diresse l'anima con la ponderazione e la saggezza e plasmò il suo corpo con la bellezza e l'armonia. Quanto alle azioni umane, insufflò in esse il loro retto principio direttivo e l'armonia dell'ordine di cui questa stessa sapienza è fatta. Il pedagogo ama l'uomo. Dio ci ama e ci guida. Il Signore dà giovamento in tutto ed è di aiuto in tutto, sia come uomo che come Dio. Come Dio ci condona i peccati, come uomo ci guida educandoci a non peccare più. È naturale, infatti, che l'uomo sia caro a Dio, giacché è sua creatura. E le altre cose le creò con un comando. L'uomo, invece, lo plasmò con le sue proprie mani, insufflando in lui qualcosa di speciale. Ora l'uomo, questa icona di sé che Dio si è fatta, è stato creato o come cosa desiderabile in sé agli occhi di Dio o come cosa desiderabile a motivo di qualcos'altro. Se l'uomo è desiderabile di per sé, significa che Dio, essendo buono, ha amato ciò che è buono. Vi è cioè all'interno dell'uomo un fascino misterioso, quel che viene chiamato soffio divino. Se invece l'uomo era desiderabile in funzione delle altre cose, allora Dio non ebbe altro motivo di crearlo, se non che senza di lui non sarebbe stato possibile a Dio di essere un creatore buono e all'uomo di pervenire alla conoscenza di Dio. Se l'uomo non fosse esistito, infatti, Dio non avrebbe creato ciò in funzione di cui l'uomo venne ad esistere, poiché Dio portò pienamente ad effetto la forza che celava dentro di sé, ovvero il suo volere, tramite la potenza con cui creò le cose esteriori, assumendo da parte dell'uomo l'uomo stesso che egli aveva creato. E così vide ciò che già possedeva e divenne ciò che desiderava. Nulla, infatti, è impossibile a Dio. L'uomo, dunque, che Dio ha fatto, è cosa desiderabile per se stessa. E ciò che è desiderabile per se stesso ha un legame di affinità con colui per il quale è desiderabile e per costui è oggetto di accoglienza e di amore. Ma vi è forse qualcosa che sia oggetto di amore per qualcuno e che da questi non sia di conseguenza amato? Ma si è dimostrato che l'uomo è oggetto di amore, quindi Dio ama l'uomo. E come non lo amerebbe dal momento che per lui fu inviato dal seno del Padre, l'unigenito, logos della nostra fede. Sì, certamente è lui, il Signore, l'oggetto della nostra fede pienamente. Lui che ha proclamato «Il Padre stesso vi ama poiché avete amato me» e ancora «Li hai amati come hai amato me». È quindi ormai chiaro ciò che vuole e ciò che ci richiede il pedagogo, il quale è intento a guidarci, con gli atti e con le parole, nelle rette azioni, e a distoglierci dal contrario. Ed è evidente che l'altro genere delle sue parole, quello didascalico, rimane limpido ed essenziale, è spirituale ed esige un accurato uso dei termini, è il genere contemplativo iniziatico. Per ora lo lasciamo da parte. Or dunque, noi siamo chiamati a riamare colui che è la nostra amorevole guida sul cammino di una vita nobilissima. Siamo chiamati a vivere secondo le disposizioni del suo volere, non solo compiendo ciò che egli ci comanda ed evitando ciò che ci vieta, ma anche prendendo in considerazione gli esempi che egli, come immagini, ci propone. Respingeremo le une e imiteremo il più possibile le altre, e in tal modo compiremo, per somiglianza, le opere del pedagogo, affinché si realizzi quel che sta scritto, ad immagine e somiglianza. Noi, che siamo in balia di questa vita come in profonda tenebra, abbiamo bisogno di qualcuno che senza errori e con esattezza ci guidi sul cammino. Ora, la miglior guida non è certamente il cieco che, come dice la scrittura, conduce gli altri ciechi verso il baratro, ma è il Logos, che ha la vista acuta e scruta l'interno dei cuori. E come non vi è luce che non illumini, né cosa movente che non muova, né essere amante che non ami, così pure non può esservi un bene che non sia di giovamento e che non conduca alla salvezza. Amiamo dunque, mettendoli in pratica, i precetti del Signore. Il Logos, infatti, facendosi carne, ha mostrato chiaramente che la medesima virtù concerne allo stesso tempo la vita pratica e la contemplazione. Prendiamo dunque il Logos come legge e riconosciamo nei suoi precetti e nei suoi consigli le vie brevi e spedite verso l'eternità. I suoi comandi, infatti, sono pieni di persuasione, non di minaccia. Il Logos è pedagogo ugualmente degli uomini e delle donne. Abbracciamo quindi ancor di più questa bella disciplina di obbedienza e diamoci completamente al Signore, afferrando la saldissima gomena della fede che Egli ci ha dato e prendendo atto che la medesima virtù è sia dell'uomo che della donna. Se infatti per entrambi uno solo è Dio, allora per entrambi uno solo è anche il pedagogo. Una è la Chiesa, una la saggezza, uno il pudore. In comune abbiamo il cibo e il matrimonio ci unisce. Siamo simili in tutto, nel respiro, nella vista, nell'udito, nella conoscenza, nella speranza, nell'obbedienza, nell'amore. E se comune è la vita, comune è anche la grazia, la salvezza, la virtù, la morale. In questo mondo, sta scritto, si prende moglie e si prende marito, poiché solamente quaggiù la femmina si distingue dal maschio, lassù invece non sarà più così. Ivi la ricompensa preparata come premio di una vita matrimoniale vissuta in comune e santamente non è per il maschio o per la femmina, ma per l'uomo, ormai lontano da quella concupiscenza a causa della quale era diviso in due generi. Sia all'uomo che alla donna, infatti, è comune il nome di Anthropos, essere umano. E per tale motivo, mi pare, e gli attici hanno utilizzato la stessa parola neutra, paidarion, fanciullo, per designare non solo il maschio ma anche la femmina, se dobbiamo prestar fede al comico Menandro che, nella Donna picchiata, dice «La mia figlioletta, molto buona in vero e di natura, questo paidarion». E anche il termine agnelli, che designa la semplicità, indica sia l'animale maschio che la femmina. Il nostro pastore è il Signore, per tutti i secoli. Amen. Le pecore, in vero, e gli altri animali, non devono vivere senza pastore, né i fanciulli senza pedagogo, né i servi senza padrone.